cominciato a usare la dinamite. Allora credevo anch'io in tante cose, in tutte. E ho finito per credere solo nella dinamite. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Non ha ancora 20 anni Romana quando nel dopoguerra conosce Mario Pavesi. Anche lui è giovane, ma la vita non gli ha risparmiato niente. Lavorare a 16 anni e poi via sotto le armi, la guerra nei Balcani, la lunga prigionia e infine in Italia, in una fabbrica di cemento a spaccarsi la schiena. Sempre da solo, perché ha perso genitori e fratelli finché non incontra Romana. Si innamorano, si fidanzano, si sposano. Lavorano sodo, lei fa la domenica e lui è l'operaio. La domestica. Ma i salari sono bassi. Quando nascono i due figli, Ottavio e Maria Rosa, Mario vuole offrirgli una vita migliore della sua, vuole farli studiare. Per questo, nel 1957, decide di andare a lavorare alla Eternit, una grande fabbrica di Casale Monferrato, dove dal 1906 si produce un composto di amianto, acqua e cemento, e dove la paga è migliore e sicura. Mario ci lavora tutta la vita, senza sosta, fino alla pensione. Quando finalmente spera di poter passare più tempo con i figli e i nipotini, una mattina di febbraio del 1982 si sveglia con un forte dolore alla schiena. Gli diagnosticano il mesotelioma pleurico, un cancro che non lascia speranze. La stessa malattia che tanti colleghi e tanti abitanti di Casale hanno già avuto. Dopo un anno di sofferenza Mario muore, Romana è sempre al suo fianco fino alla fine. Ma purtroppo per lei le sofferenze non finiscono. Ad ammalarsi e poi a morire negli anni e nei decenni seguenti saranno la sorella Libera, la cugina Anna, un nipote e infine anche Maria Rosa, sua figlia. Romana diventa, nel 1988, la presidentessa dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto di Casale e fino alla morte di Mario denuncia quello che in città tutti sapevano ma nessuno voleva dire: l'Eternit uccide. Le minuscole fibre di amianto liberate dalla lavorazione del minerale provocano l'asbestosi e soprattutto il mesotelioma. Le fibre a Casale sono ovunque. Sebbene fin dagli anni 60 diverse ricerche dimostrino la pericolosità dell'amianto, l'Eternit a lungo si rifiuta di accettare questa verità scientifica. La produzione continua fino al 1986, ma quando la fabbrica chiude la diagnosi di mesotelioma aumentano perché questo maledetto tumore arriva a manifestarsi anche decine di anni dopo l'esposizione. A partire dalla metà degli anni 90 iniziano i processi contro i dirigenti e la proprietà dell'Eternit, che si concludono con la prescrizione dei reati ambientali il 19 novembre 2014 con le assoluzioni della proprietà aziendale. In seguito alle decisioni della giustizia, la signora Romana chiede di dimettersi per protesta da presidente della FEVA, ma ancora oggi continua a lottare per avere giustizia e verità. Questa è Romana, da Cronaca Ribelli al Manacco di Utopie Reali, Identità Indelebili e Rinnovata Memoria. E buonasera a tutti e tutte. Tu hai il microfono anche spento, amico caro. E buonasera, buonasera, buonasera. Io vado avanti da solo. Io non sento nessun altro che la mia voce. Forse la mia cuffia è rotta. I nostri problemi tecnici anche questo lunedì non... Ora, ecco, non si fanno attendere. Eccoci. Buonasera, eccoci. Bentornate, buonasera. Bentornati tutte e tutte sulla puntata numero 70 di Fuoco alle Polveri. Esatto, non sappiamo più. 75. La scorsa settimana non siamo andati in onda, giusto? No, ma avevamo tante cose da fare, molto belle. Esatto, quindi sì. Gioirete tutti, esatto, e tutte di quello che abbiamo fatto settimana scorsa, anche se non ci potrete ascoltare, vi spiegheremo. Scoprirete il perché. Si parlava di Casale Monferrato? Si parlava dell'amianto e di Casale Monferrato, sì. Tra l'altro sì. Io ho letto qualcosa al riguardo un po' di tempo fa e se non mi sbaglio potrebbe essere una fake news. Andate tutti a controllare, subito. Ma l'azienda Eternit, una volta conclusa la sua avventura a Casale Monferrato, sì, in Italia, diciamo, penso in Europa negli anni 80 fu vietata la produzione dell'amianto, loro pensarono bene, non credevano, non ci hanno mai creduto che fosse l'Eternit a provocare questi mesoteliomi, ma sono fatto sta che si sono spostati, sono andati in Brasile, se non erro. Ottimo, in Brasile, giustamente, quando in Europa non puoi fare più le cose, certo, basta andare un po' più là. Vai in Sud America o dove o dove deve andare. A proposito di questo tema, consigliatissimo il libro del nostro amico Alberto Pronetti, Amianto, proprio sulla storia di un operaio e della sua famiglia che si è ammalato di amianto. Senti, comunque oggi 19 novembre, lunedì come al solito, cosa facciamo? Abbiamo ospiti, abbiamo la regia piena di ospiti e io non so neanche, sono arrivato un po' di corsa, non so Noi neanche abbiamo da quale iniziamo. Il regista comunque... è uno degli autori, giusto? Sì, sono io Alessio. No, devi avvicinare. Molto più vicino al microfono, bravo. Io ragazzi. Sono uno degli attori. Attori, avevo capito autori. Magari, anche autori, forse, no. Anche autore? No. Attore. Quindi il regista è uno degli autori del film mirabolante. Degli attori, attori. Come scusa? Uno degli attori. Attore. E cosa attore, ha detto? Attore. No. Autore. No, un'altra invece, volta l'ho ridetto. Sì, è incredibile. Bellissimo. Del film Go Dante, Go. Esatto. E poi ne parliamo tra pochissimo. E poi abbiamo anche uno dei due autori della guida più pazza della città di Firenze, appena uscita, giusto una settimana fa, presentata negli spazi della Polveriera. Si sta parlando di Firenze No Cost. Esattamente. Sentirete la voce di uno degli autori. E poi abbiamo un paio di rubriche e poi probabilmente ci rintaniamo nel sottosuolo. Esatto. Nardellata, soprattutto. Nardellata, sì. Io parlerò di animali marini. Bene, andiamo con un pezzaccio. Dai. Così per spezzare il tutto. Dai. Wombat. Side, west side is always be. the top of the hour, we're about to prepare you for another 2 hours of music-free commercials. Eccoci. Eccoli. Siamo tornati qui in compagnia delle della mente. Delle star. Delle star. Delle star. Ciao a tutti. Ciao. Senti che voce profonda. Ciao a tutti. Prova a indovinare qual è l'attore e qual è il regista pensatore. Prova, prova, prova. Io sono il regista pensatore. Non ci crede nessuno. Hai la voce da allora, regista, dai. Siamo qui con Nencioni. Ciao. Che è il regista, nonché scrittore, nonché produttore. Mi verrebbe da dire. Tutto fai. Tutto fare. Faccio tutto. Chi fa da sé? Di Godante Go Go Go. Esatto. Go Go Go Go. Go. Ci sono un go all'inizio e tre, se non sbaglio, alla fine. Controllate. Sì, è così. Non è così, è così. Lo sto vedendo anch'io. Che poi non è, se non è il primo, sbagliato a scrivere la tua prima fatica. No, dai. Diciamo è la, ufficialmente è la terza fatica. Prima c'è Verso Rio, anzi sarebbe la quarta. Prima c'è il Lago Nero 3, un altro horror. Senza l'1 e il 2, ovviamente. Senza l'1 e il 2, cioè questi li volevo fare come dopo, da miglior tradizione. Quando sarò morto. E poi c'è, abbiamo fatto Verso Rione, un film tutto in rima. E poi abbiamo fatto Possessione Demonia, un altro horror. Bellissimo. E poi siamo visto a Godante. E quindi il quarto, non questo è il quarto. Sì, a volte perdo qualche film. Tutti autoprodotti, sono diciamo film indipendente. Fatti in casa. Però indipendente per davvero, no? Indipendente per, perché ormai è indipendente qualsiasi cosa, no? Cioè, fatto da, tutto da noi. Tutto da voi. Tutto da noi. Cioè, da voi chi? Te, le tue multiple personalità? Sì. Allora, diciamo che negli anni si è creato un gruppo di lavoro. Qualche elemento si è perso per strada e qualche elemento invece si è aggiunto. Per esempio, vi svelo un incredibile segreto, ma qui presente Drago ha fatto parte dello staff di vero, vero, vero, è vero, stato vero, schiavizzato per il cinema nelle migliori tradizioni. Grande fortuna. Arrivava per sempre in ritardo, ritardi mostruosi. Vabbè, vi siete abituati come noi. È così, però, è così. Però è simpatico. È simpatico. Si impegna, un bravo ragazzo, ma non bravo. Si applica. E che di cosa parla sto film? Perché è un po' particolare, diciamo, no? Ricalca un po' quella. Sì, è molto particolare. Allora, questo film parla. Allora, dico in tre parole la trama del film, almeno tutti la sapete. Dai. Senza spoilerare. Senza spoilerare, ovvio. Allora, il protagonista è, si chiama Dante, è un giovane regista indipendente che per una serie di vicissitudini decide di partecipare a un concorso per cortometraggi, quindi per una sorta di rivalsa la sua vita sta andando malissimo, decide di partecipare a un concorso che consta di 10 categorie, una per genere cinematografico. Lui ha un colpo di testa, decide di iscriversi a tutte e 10 le categorie, quindi a meno di un mese per girare 10 cortometraggi. Deve girare un horror, un film, un western, un film di Kung Fu, eccetera, eccetera, eccetera. E il suo migliore amico, che lo aiuta in tutto ciò, si chiama Sereni, il personaggio, ed è qui, e l'attore lo interpreta è qui accanto a me. Ale, ciao a tutti. Applausi. Eccolo. Com'è stato lavorare come attore con Nencioni? Allora, c'è da dire che Nencioni mi ha messo un po' in difficoltà, non tanto per il personaggio, perché mi ha lasciato piuttosto libero, quanto per location, orari, che anch'io come il nostro grande Drago... Ho fatto dei ritardi, ecco. Eccoli, vabbè, ma quello agli attori è un po' permesso, no? Insomma, dipende, insomma. A volte veniamo detestati per questo. Però sì, insomma, ha messo a dura prova soprattutto il corpo, come dire, caldo, zone... Questi ragazzi si lamentano sempre, cioè per un po' di caldo, dai, un quarantina succede di gradi, ma che saranno male. Ma certo. E sì, questo film è stato girato comunque in zona fiorentina, diciamo, più o meno. Allora, Toscana. Sì, allora, diciamo, è stato girato prevalentemente a Firenze e provincia, e visto che siamo, diciamo, in un'area fiorentina non ben precisata, possiamo dire che è stato girato molto in alcuni spazi autogestiti di Firenze. Quindi abbiamo girato tipo? Per esempio al CPA, abbiamo girato all'Emerson e abbiamo girato anche alla Polveriera, quindi li abbiamo girati un po' tutti. Sì, anche negli Mancanti. Ne abbiamo girato bravissimo, negli Mancanti, che ringrazio l'associazione Negli Mancanti che ci ha dato una mano per avere questo spazio, perché ovviamente uno dei problemi per realtà come la nostra è trovare gli spazi dove andare a girare la roba, quindi trovare gli spazi è veramente un grosso problema. Vabbè, sì, cioè è un problema per girare poi film, insomma, roba di finzione o così, che non siano documentari, così è sempre un problema. Esatto. esatto. Giocare senza soldi. Esattamente, così. Esattamente, uno dei problemi, sì. Ma la tua è stata, faccio la domanda un po' stronza, la tua è stata una scelta farlo così, da subito? Cioè, ci hai provato a trovare dei fondi per farlo in maniera più canonica? Allora, io quando in fase di scrittura mi viene ormai naturale pensare a dire questa. Cioè, non scrivo mai in questa scena c'è un dinosauro alto 4 km che sputa fiamme, perché so che molto probabilmente non avrò i soldi per poterlo realizzare. Quindi magari scrivo qualcosa di un po' più low profile, però che posso magari realizzarlo. E ho provato a cercare un po' di soldi, però io non so trovare soldi. Ecco, se qualcuno all'ascolto sa trovare soldi, secondo me è tendenzialmente un bene. Però ho deciso di partire lo stesso, perché alla fine è anche questa cosa di non avere soldi, però è bella, cioè nel senso ti devi ingegnare. Di sicuro è esatto. Quello che manca te lo devi trovare, e poi conosci un sacco di gente simpatica come te. Magari qualcuno con i soldi li trovi. Come? Se Drago avesse anche soldi sarebbe dai Drago, caccia fuori soldi, sarei il marito perfetto per qualunque uomo donna regista della Ghessa, della Ghessa. Esatto. E niente soldi e che non ci sono e tutta, cioè, non, se non sbaglio è tutto nel senso fatto nella miglior artigianalmente, nel senso anche la colonna sonora è tutta scritta ad hoc. Allora, noi abbiamo cercato di fare tutto originale, quindi dalla scrittura fino alla colonna sonora. Quindi anche di questo è un po' motivo di nostro vanto, perché in tutti i progetti che cerchiamo di fare, anche la colonna sonora, che per noi è molto importante, cerchiamo di farla da noi. Coinvolgiamo altri musicisti, ovviamente, altre persone ben più capaci di me, e cerchiamo di buttare giù una colonna sonora ad effetto e originale, certo. Sì. Invece, altra domanda. Cioè, il fatto di aver inserito nel film, no, come ci dicevi prima, che ci sono 10 tipologie, 10 generi diversi, no, diciamo, di cortometraggio all'interno del film, 10 etici, e ti sei aumentato difficoltà a dismisura. Allora, no, diciamo che questo è in effetti il progetto più ambizioso che abbiamo mai fatto, perché sì, abbiamo dovuto girare noi stessi un horror, un western, un film d'arti marziali, e sono... I film di genere non sembrano magari facili da realizzare, però anche girare una scena di combattimento credibile, va sicuro che non è facile renderla accattivante, renderla fruibile. E quindi sì, Dante, che è il protagonista, gira 10 corti, noi ovviamente abbiamo dovuto girare. E non è stato facile, perché, soprattutto per i vari cambi di location, cambio di fotografia. Vabbè, anche i cambi di... Cioè... Immagino, dovevo imparare a fare Kung Fu, dovevo imparare a sparare come un pistolero, dovevo imparare a esatto, a urlare. Per l'attore Giacomo Dominici, il protagonista Dante, che ha fatto il protagonista Dante, ha fatto un corso di danza classica. Per stare bellissimo in scena, per interpretare. Sì, per interpretare. Bravissimo. Dante. Actor Studio. Sì, tra l'altro lo salutiamo, che avrebbe voluto essere qui, ma non è potuto venire. Sì, non lo so dov'è. Ciao Giacomo. Tanti bacetti. Bello. Sempre bello trovare delle autoproduzioni, soprattutto in area fiorentina, che spesso si va avanti per pubblicità e roba di moda e riprese di eventi e roba del genere. Il narrativo c'è ben poco, effettivamente. Te è da tanto, quindi, che giri? Beh, non, sì. Cioè, ora non mi ricordo quando ho iniziato, però sì, è venuto un po' naturale. Io non ho fatto studi specifici, però abbiamo cercato di, soprattutto in questo progetto, di tirare dentro delle professionalità. Perché ora, per esempio, qui accanto a me c'è Giacomo Casale, che comunque è un attore, insomma, che è da anni che lavora come attore, che studia come attore. Sì, in teoria studiare non si finisce mai, però sono tipo 10 anni, ecco, che ho cominciato, che studio, sì. In giro per Firenze. E appunto conoscere Alessio ci ha fatto, cioè, ha creato anche un'amicizia che si spera sia duratura, visto che lui è un regista produttivo e io un attore meno produttivo, come dire. Può essere utile. Certo, sì. Poi oltre a lui ovviamente hanno collaborato ai film più di 50 persone alla fine. Ora sto facendo provando a ringraziare tutti 50. Grazie tutti. Però insomma è stato un gruppo veramente numeroso. Ci credo, ma fra l'altro sì, appunto, perché ci sono stato anch'io appunto sul set, c'era un bellissimo ambiente sul set, effettivamente, c'è una buona capacità di collaborazione, di arrabattarsi con poco, sono sempre i migliori, alla fine si impara un sacco di cose. Sì, poi devo dire che, come dicevamo prima, il fatto di non avere soldi comunque attorno a te delle persone comunque sia che hanno voglia di fare un progetto così senza essere pagati, insomma. Quindi hanno delle caratteristiche un po' particolari, ecco, e ci si lega subito, insomma. Sì, spesso giovani anche. Sì, io sono quasi più giovani e belli. Giovani e belli. Giovani e belli, sembra così giovani, dall'esterno sembra giovani e belli. Avanti devo cercare più giovani, certo, perché per sentirti meno vecchio. Sì, quello è perché più vecchi mandano a quel paese. Ah, ecco. Certo. Sì, ne avevamo già parlato una volta, se non sbaglio. Dopo allo scoccare dei 30 anni si diventa tutti più antipatici. I ventenni ancora hanno voglia di sognare, poi non so che succede, a una certa età si incricca qualcosa dentro, non so. Ma quando esce? Forse l'hai già detto, ma non me lo ricordo. No, non l'ho detto. Allora, questo è un grosso mistero, perché ora siamo in fase post-produzione, ricordiamo che il film l'abbiamo finito di girare in quest'estate, l'estate 2018. Ora siamo in piena fase post-produzione, quindi sia video che audio. E io punterei a uscire a primavera, quindi se post produttori all'ascolto mi riferisco nello specifico a Filippo Ficozzi, Giulio Melani e poi anche a Matteo Ficozzi per l'audio, ragazzi, sì, sbrighiamoci, perché il film è da uscire, vogliamo vederlo, siamo tutti molto impazienti. Ovviamente a quel punto farei una proiezione nei vari spazi autogestiti che ti hanno dato spazio, per forza. Allora, ovvio. Possessione Demonia l'abbiamo proiettato sia al CPA che all'Emerson. Ci manca lo spazio autogestito Polveriera. E se siete all'ascolto, ragazzi, dello spazio autogestito Polveriera, noi veniamo quando volete, da anni ve lo propongo. Bene, anche noi rilanceremo allora questa proposta. Tutti lunedì. Ci ascoltano spesso, sì, ragazzi, da Polverino. Sì. Bene, bello. Io farei sentire una chicchetta dalla colonna sonora. Questo dai, punto. È figata. Sì. Dura poco, poi ci salutiamo e andiamo avanti con la trasmissione. Wombat Wombat. Insomma, grazie per questa breve intervista, ma anche noi siamo stati un po' degli wombat cattivi e abbiamo avuto dei problemi tecnici. Strano, non ci abbiamo mai. Ma però, scusate, io ho visto un video. Sì, tu hai visto il teaser? Il teaser? Oppure hai rubato il montato? No, semplicemente stipolando su... Okay. No, probabilmente avrai visto il teaser che abbiamo girato un paio d'anni fa, quindi quello è già fruibile, se andate sulle nostre pagine Facebook, c'è la pagina Facebook del film, si chiama Go Dante Go Go Go, altrimenti andate sul sito internet www.magneticad.it, lì c'è tutto, potrete trovare qualsiasi cosa, anche foto di noi. Bello, andiamo. È allora vero, tra l'altro, mi sanno c'è una foto di voi. No, c'è anche The Lago. C'è anche The Lago. Sì, nella foto sono tutti presenti e tutti nudi. Sì, sì. Benissimo. Allora, se qualche produttore volesse vedere dei bei soggetti nudi e poi sganciare anche un sacco di quattrini, non gli vogliamo, non gli voglio le soldi. Che poi la cosa, no, seriamente, la cosa brutta di avere un produttore se ti dai soldi è che poi vuole avere giustamente ovviamente il controllo sui contenuti anche, quindi certo. È un discorso annoso. Cioè, il cinema indipendente è nato, vabbè, ovviamente, cioè, non a caso, ovviamente anche per la diminuzione dei prezzi dell'attrezzatura, ma anche da quel bisogno lì. Non a caso è nato fine anni 70, anni 80, diciamo, i veri esempi, cioè i primi esempi di cinema indipendente. Quindi, diciamo, era una scelta di campo grossa, anche politica in un certo senso. Grande The Lago, grande maestro. Sì, sì. No, grande saggezza. Sì, sì, sì. Vabbè, vi salutiamo, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao, grazie mille. Grazie. Grazie. Ovviamente potete rimanere a importunare per tutta la puntata quanto volete. Potete fare tutto qua. Quello che volete. No, noi scappiamo, ciao. C'è un divano che vi attende, se volete, alle vostre spalle. Anche un trafano alle vostre spalle. Anche un trafano, sì. Non ci fermiamo mai al Wombat. La tana del Wombat è in continua evoluzione. Lo potete sentire dal sottofondo. Adesso che facciamo, amici? Adesso possiamo fare una rubrica. Una rubrica. Dai, E che rubrica vuoi fare? Che? C'era una nuova rubrica, era uscita su Fuoco alle Polveri qualche puntata fa. Era per caso questa? Dopotutto, domani... Che una bella bestia. Eccoci. E ti ho dato il file sbagliato, tra l'altro. Sono molto contento di questo, del... Cioè? Era più prolungata la faccenda della sigla. Comunque, poco male. Io ti avevo dato... questo è il sottofondo che ti avevo dato? No. Bene, molto bene. È andato tutto liscio, secondo me, non so che. Allora, se l'ultima volta abbiamo parlato di zanzare, un animale molto piccolo e molto fastidioso, oggi parliamo di un animale invece molto grande e molto poco fastidioso, ossia il capodoglio. Capodoglio. Forse uno dei... No, anzi, il più grande, insieme alla balenottera azzurra. Sì, comunque sono i grandi abitanti del mare. Perché si chiama capodoglio, mi chiederai tu, caro Bricobaldo. Me lo chiedevo proprio, guarda. Anche il trapolo alle nostre spalle, probabilmente se lo chiede. Lo stanno sentendo. Comunque il capodoglio, perché era capdoyle, ossia capo pieno d'olio, perché la testa del capodoglio, enorme testa del capodoglio, è piena di una sostanza cerosa particolare che è stata usata da fine Settecento a pochi decenni fa per mille utilizzi diversi, e quindi era chiamato, è stato chiamato così. Era la principale materia, sì, materia che veniva utilizzata della bestia. E appunto la testa è questa testa enorme, circa un terzo del corpo, e il capodoglio ha il cervello più grande in proporzione al proprio corpo, e in generale anche in assoluto il cervello più grande di ogni altro animale che è, mi sa che è mai passato sulla terra, non solo di quelli non estinti. Ha una pelle grigia o bianca e molto durissima. Durissimissima, però anche tutta squamosa, tutta, come si dice, non mi viene una parola, spinosa, sì, ecco. Spinosa? No, spinosa, ma... Corazzato. Spiegati, se vedi il mio gesto e spiegalo. Liscio. Non liscio, ok? Il contrario. Ruvido, eccola, ruvida. Pelle ruvida, a differenza di tutte le altre balene che invece hanno la pelle liscissima. Ah. Perché questo? Perché hanno bisogno di proteggersi da che cosa? Dai morsi degli altri capodogli. I capodogli si mordono e tu mi dirai: ma i capodogli non sono balene, hanno i fanoni invece i denti? No, carissimi. E hanno i denti. Hanno i denti perché sono della stessa, sono della famiglia degli odontoceti, e hanno quindi i denti come le orche e come i delfini, mentre le balene sono un'altra specie, un'altra famiglia di animali del mare, e quindi hanno i fanoni. Perché non pappano cose diverse, immagino. Perché pappano cose diverse. I capodogli principalmente pappano polpi, altri pesci e i grandi calamari che abitano i grandi mari, mentre le balene mangiano principalmente plankton, che è forse la parola plankton dell'anno. Buone plankton, sì. Sono bestie effettivamente abbastanza grosse. Vanno tra i 12 e i 18 metri di lunghezza. Enormi e leggendari. E leggendari, 12 e 18 metri. I 12-14 le femmine e 16-18 i maschi. Quando nascono pesano circa una tonnellata e sono lunghi 4 metri i neonati. non sono così piccoli alla fine, e poi crescono però a livelli diversi, cioè con velocità diverse, e il capodoglio maschio può arrivare fino a 50 tonnellate di peso. E, sembra che nel passato, soprattutto dai resoconti di navigatori e di cacciatori di balene, i capodogli in realtà misurassero molto di più. Misurassero intorno ai 25-30 metri anche. Boia. E magari aumentavano per fare più i gradassi. Forse aumentavano per fare più i gradassi, o forse più probabilmente sono stati sterminati i capodogli più grandi, esatto, perché venivano cacciati principalmente quelli, e quindi non ci sono più quei capodogli di quella grandezza, e ultimamente poi non crescono. Probabilmente si sono anche adattati a questo tipo di sopravvivenza. Sopravvivenza, diciamo. Esatto. Le femmine partoriscono ogni anno, hanno questa evoluzione lenta, viene chiamata, ossia una linea evolutiva. Non sono come le zanzare che partoriscono ogni 3 giorni 75.000 uova, ma sono animali che se la prendono un po' più con calma. Le femmine partoriscono ogni 4-6 anni e la gestazione arriva a fine 18 mesi, anche se non è chiaro e non si sa bene perché comunque non è semplicissimo starci dietro ai capodogli, anche se sono così grossi. E inoltre e il mammifero si emerge per più tempo e a più profondità. Quanto ci sta sotto? Ci sta più di 2 ore. Pensate. Prende una riata e sta più di 2 ore sotto e arriva fino a 2200 metri di profondità. 2200. Le grandi profondità. Le grandissime profondità. Ha la vista notturna, quindi. Non vedono tendenzialmente una sega, è tutto basato sul loro big sonar che sta nella testa. È un sistema di ecolocalizzazione per cui loro emettono dei suoni. Era un altro punto questo, ma te lo spiegherò adesso, caro mio drago. No, scusi. Emettono dei suoni che sono dei click, vengono chiamati click, che sono una cosa del genere, che rimbalzano sopra gli ostacoli, che possono essere pareti di roccia piuttosto che polpi succulenti, e ritornano, fanno capire la distanza, fanno capire l'entità del pericolo, e quindi o vengono scansati o vengono puppati. Anche le navi vengono identificate in questo modo qua. E poi parliamo dopo, magari dico una chicchetta sulla comunicazione invece tra di loro, che avviene sempre con questi click. Nella testa, in questa testa gigantesca, hanno questa sostanza che è stata definita spermaceti, che richiama appunto il seme, che infatti i primi che hanno trovato questa sostanza pensavano proprio fosse il seme della balena nella testa, perché aveva quella consistenza lì. In realtà ovviamente assolutamente no, e però la testa del capodoglio abbonda di questi spermaceti. E cosa servono questi spermaceti? All'immersione servono. L'acqua entra, raffredda questi spermaceti, che diventano una sostanza cerosa molto dura, che le appesantisce e fa sì che la discesa negli abissi non sia per niente faticosa. E sono delle zavorre? Sono tipo delle zavorre, sì, che vengono attivate a scelta del capodoglio quando decide di scendere. Sì. Con questi spermaceti, purtroppo, sono stati fatti migliaia di prodotti industriali, chimici, farmaceutici, cosmetici, lubrificanti. Ancora vengono fatti, in realtà la caccia sarebbe vietata, quindi tendenzialmente. Ma non è così? No, non è così, sono comunque giapponelli. Poi i giapponelli, sì, ma con i capodogli ce l'hanno poco i giapponelli, perché comunque il capodoglio è un po' più rispettato e anche si fa beccare meno. Si fa beccare meno. È un'orcaccia comunque il capodoglio, alla fine viene da quella famiglia lì, capito? Sono delle bestie un po' infami. E dove si trovano? In tutto il mondo, in tutti gli oceani, anche nel Mediterraneo. Quindi se volete andare a fare una girata potete andare anche, penso, trovare. Non solo nel Mediterraneo, ma penso anche nel Mar Ligure, ci Mar Tirreno, ci sì, sono. Sì, ci sta, ci sta. Sì, non sì, si sa assolutamente. Sì, ci sono anche Grippo, che salutiamo, dice ci sono, ci sono. Visti lì. No, dicevano a un porto, mi ricordo che ci fu l'episodio, non mi ricordo quale porto. Bravo. Forse Livorno, forse Civitavecchia. Chissà, ma tanti anni fa. Diciamo Civitavecchia. Trovarono i capodogli. Sì, anni fa. Tipo, sì, ma comunque si spiaggiano, ogni tanto si spiaggiano i capodogli. E tra l'altro fanno delle robe abbastanza strane. C'è un caso del 1970, un caso del 2014 in cui sono esplosi. Esplosi? Esplosi. Esplosi perché quando muoiono gli organi interni si decompongono. completamente, come mentre noi. La pelle come noi, però la pelle non si riesce a squarciare essendo una pelle molto molto grossa, insomma, dura. E quindi se si creano dei gas che poi fanno reazione con altri gas e poi con altri gas ancora, fanno le botte. E tra, appunto nel 1970 e nel 2014 sono state queste esplosioni, una in Giappone, non mi ricordo assolutamente dove, per cui cioè quelli che poi erano lì a vedere questa balena che si gonfiava, poi tendenzialmente sono stati, nessuno è morto, ma sono stati rimandati di marciume. La vendetta del capitolo. Quello si dice andarsene col botto. Esattamente. Scusate, questo è per tu. Questo era per tu, e anche lui è salutato da noi. Allora, la comunicazione, poi mi fermo. Sono dei grandi comunicatori. Sono dei grandi comunicatori. No, volevo dire anche quella faccenda dell'ecolocalizzazione, ma l'abbiamo già detta. Quindi, la comunicazione. I capodogli usano questi click per comunicare tra di loro. Sono stati fatti delle rilevazioni negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, per cui sono stati messi dei microfoni registrati, microfoni addosso ai capodogli sono stati registrati. E quindi se andate su internet vi potete anche sentire tutte le frequenze, insomma, una roba abbastanza strana, sì. Due ore di ultrasuoni balene. Ultrasuoni balene, relax, for study. Sì, è strano, è un mondo strano. Ieri ho passato una giornata particolare, infatti. Però cosa hanno scoperto? Che questi capodogli hanno tendenzialmente una lingua comune, quindi parlano tutti all'incirca la stessa lingua, che è comunque diversa da tutte le altre animali del mare. Però parlano dei dialetti. Ogni gruppo di capodogli, i capodogli si muovono branchi di 20-30 capodogli, a volte diventano i super branchi, diventano tipo centinaia, bellissimi. Però comunque diciamo che sono tra i 20 e 30 capodogli tutti insieme, comunicano tra di loro con una lingua che però è un dialetto, nel senso che il gruppo studiato alle Galapagos, gruppo A studiato alle Galapagos, gruppo B studiato alla Galapagos e gruppo C studiato all'Antartico, parlano tutte e tre tendenzialmente lingue diverse. Ora, sono andato a vedere il DNA per cercare di capire in che punto del DNA si trasmettesse questa conoscenza. Non viene trasmessa dal DNA questa conoscenza, attenzione, no, perché in realtà il DNA dei capodogli è praticamente tutto uguale. Poi hanno detto, oi, che sta succedendo? Hanno preso un capodoglio del gruppo Galapagos B e l'hanno messo nel gruppo Galapagos A, e il capodoglio dopo qualche mese ha cambiato la sua lingua e ha imparato la lingua del gruppo A. E quindi fondamentalmente i capodogli trasmettono la propria lingua come la trasmettiamo noi culturalmente, esatto. E è una scoperta abbastanza che figo, bello. Beh, sono, sì, dei grandi, sono delle belle bestie, infatti. Sono delle belle bestie, belle bestie. Sono di diritto in questa rubrica, infatti. Ma infatti infatti sono anche mitologici, sono fior di libri che stanno, siamo arrivati a parlare all'ultimo punto, che è quello dei libri. Moby Dick è ovviamente il capostipite, l'esempio più importante sicuramente. Melville prese ispirazione per parlare della balena bianca, che appunto era un capodoglio, non era una balena. Albino. Albino, un capodoglio albino, esatto, che viveva al largo dell'isola di Mocha, davanti alle coste del Cile. Vicino a, come si chiama, Pasqua o quelle regole. Da quelle parti lì, comunque se prendi Santiago del Cile, praticamente davanti c'è questa isola di Mocha, che è una piccola isola, però con intorno tante balene. E c'era questa balena che era considerata nei diversi resoconti di cacciatori di balene la più pericolosa di tutti i mari, e diverse spedizioni andarono a caccia di questa balena, e poi grazie al nostro libro Cronache Ribelli, che leggiamo ogni quarto d'ora, scopriremo anche poi la storia proprio di Moby Dick, che era questa balena da cui Melville ha preso ispirazione. Arpionata centinaia di volte. E, tra l'altro, secondo me, lo è arrivato il momento di leggere. Dai. Questa è la storia di Moby Dick, balena vissuta nella metà dell'Ottocento vicino all'isola di Mocha. Tutti conosciamo come Moby Dick, ma in realtà il nome del grande cetaceo che ha ispirato la favola di Herman Melville, pubblicata per la prima volta il 18 ottobre 1851, è Moby Dick. E non è una balena, ma un capodoglio bianco albino che visse nell'Oceano Pacifico all'inizio del XIX secolo, al largo del Cile, precisamente nell'isola di Mocha, da cui il nome Moby Dick. Era imponente e fu cacciato per anni senza tregua e senza pace, sopravvisse a 100 scontri con le baleniere, fino al tragico epilogo. L'epoca in cui l'olio di balena porta la luce nelle case e nelle città, le baleniere salpano dai porti senza sapere se e quando vi faranno ritorno. Il mare è la grande frontiera. I marinai la raccontano. Tra le tante storie straordinarie ce n'è anche una che conoscono tutti, è quella del capodoglio che sfida i cacciatori di balene a Capo Horn. L'esploratore Jeremiah N. Reynolds ne viene a conoscenza. Si imbarca e raccoglie le osservazioni dirette di Moshe Dick. Pubblica un resoconto, Moshe Dick or the White Whale of Pacific, a leaf from a manuscript journal. Ossia Moshe Dick o la balena bianca del Pacifico, un foglio da un giornale manoscritto. Moshe Dick diventa una celebrità. Nel frattempo molti capitani balenieri continuano a dargli la caccia. Lo vogliono morto, è un trofeo. Moshe Dick però vende cara la pelle. Moshe Dick distrugge circa 20 navi. Moshe Dick non si arrende. Secondo Reynolds, Moshe Dick morì nel 1838. Era lungo oltre 20 metri e aveva più di 30 arpioni conficcati nel dorso. Si conta che fu ucciso mentre era venuto in soccorso di una femmina sconvolta il cui piccolo era stato appena ucciso dai cacciatori di balene. Questo è sempre Cronaca Ribelli che ci racconta la storia di Moshe Dick, che è una storia abbastanza incredibile, da cui appunto anche Melville ha scelto di scrivere quel bel romanzo che è Moby Dick. Ma quanto vivono i capitogli più o meno? Naturalmente, vivono fino a 70 anni. Fino a 70 tesoro, anni, sono belli longevi. Mi sono sempre chiesto come fanno poi a tirarlo sulla barca, cioè un affare di 30 metri. E lo trascinano tendenzialmente, lo trascinano, sì. Non so se viene fatto a pezzi in qualche fase del coso, ma penso di no, perché tendenzialmente sarebbe poi una bolgia di altri pesci che attaccano la faccenda. Comunque un tempo cioè, la caccia al capodoglio era una risorsa per le popolazioni che non avevano altre... Quelle popolazioni del nord, però, per così per esempio, la grande stagione della caccia al capodoglio, che è quella appunto raccontata da Melville, va a metà dell'Ottocento e la maggior parte delle imbarcazioni partono dagli Stati Uniti. Cioè dagli Stati quindi, Uniti. Da Nantucket principalmente, da dove nasce anche poi la storia di Moby Dick. Partono dall'America del Nord e doppiano Capo Horn per arrivare nelle isole del Pacifico, dove poi principalmente vengono cacciati i capodogli in quel periodo. Ultima annotazione, Luis Sepulveda ha pubblicato un libro pochi giorni fa, è uscito in Italia, che non mi ricordo il titolo, ma è la vera storia di Moby Dick raccontata dalla balena, una favola per bambini. E parte dicendo che l'isola di Moshe sull'isola di Moshe il racconto in cui un bambino trova una conchiglia, ascolta e sente la voce della balena che racconta. Quella balena lì, Moshe Dick proprio, è la balena protettrice dell'isola di Moshe e di tutti i popoli del mare, e quasi divinità per il popolo Mapuche. Il popolo Mapuche, ne abbiamo parlato tante volte, è un'altra volta sulle prime pagine di alcuni giornali, perché un attivista è stato ucciso dalla polizia pochi giorni fa e continuano gli scontri e le proteste nel governo del Cile, che da ormai qualche secolo, non solo il governo del Cile, prima quello spagnolo e anche quello argentino e tutti gli altri che sono passati lì, provano a sterminare questo popolo. Detto questo, puoi mandare la sigla, tesoro, che io saluto. Andiamo con un pezzaccio subito a ruota dopo la sigla. Dai, che è del nuovo album di Cuore del Fomento, prodotto da Chaos One. Domani. È una bella bestia. Questa vita mia, alla fine sì, non è che l'ho capita. L'ho scritta, messa in rima, ma forse l'ho tradita. Consumata e trascinata un po' dovunque, con la curiosità e la fantasia incrostata sotto le unghie. L'ho raccontata forse meglio di quanto sia stata. L'ho messa in scena sopra un palco, ma l'ho suonata. Che porto la mia croce ovunque vado, vado dritto verso il precipizio e cado, cavo. Guida tu che io mi perdo dentro l'orizzonte. Risalgo la corrente per bere dalla fonte e ricordarmi che per indole o dovere ho miglia da percorrere, promesse da mantenere, perché non è finita qua, lo leggo nelle sfere. Noi siamo pronti già da che non conti più le ere, ed è un piacere ripetermi di avere ancora miglia da percorrere, promesse da mantenere. La notte chiama e non regala pace, il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace. M'ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta prima di dormire, ed ogni testo promesse da mantenere. ogni mio passo sono miglia, si può capire. Ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta, essere me stesso mi consuma. Convivo con il sole e l'altra parte della luna. Certi giorni il peso che c'è addosso me lo leggi dentro gli occhi. Stringo la mia psiche con il cuore a pezzi, sento i suoi rintocchi. Continuare, continuare, attraversare questo mare. Vedremo mai la fine o l'inizio di qualcosa. Avremo nella mano la sua spina o la rosa. E questo mi consuma. Sono triste quando non ti vedo. Ti ho cercata in ogni angolo del mio pensiero. Ho grattato mille volte il nome sopra il muro. Ho imparato a riconoscerti anche nel buio. La fine non è mai la stessa. La verità è un coltello quando ti attraversa. Posso fingere con gli altri, sono bravo a farlo. Ma dentro c'è qualcosa che ti rode come un tarlo. Che strana la vita. Mille promesse scadute, una mantenuta. Sentieri e pensieri su ogni strada vissuta. E gioia la rinfusa. Ma non ho mai guardato fuori dai tuoi occhi. È quello che mi illumina, pure se sto a tocchi. Perché siamo vento che non smette di soffiare. E ancora altre miglia, promesse che devo mantenere. La notte chiama e non regala pace. Il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace. Ma ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta prima di dormire. Ed ogni testo promesse da mantenere. Ogni mio passo sono miglia e si può cadere. Ma ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta. Non ho mai smesso di cercare sentieri da scoprire. Ragioni per restare, il cuore per partire. Vuoi venire? Perché un passaggio è scontato, un viaggio da finire prima che sia iniziato. È complicato, lo puoi capire più avanti. Piove sui bagnati a seguire tornanti. Voci del passato troppo distanti. Occhi come tagli, flash abbaglianti. E andiamo avanti sto discorso. Abbiamo solo rimpianti, siamo senza rimorso. Il percorso non lo cadiamo più spesso. Ho corso contro mano, contro il diavolo, contro me stesso. E adesso ci crediamo appena. Siamo il riflesso di un processo a catena. La chiave del problema l'abbiamo già girata. E ce ne andiamo con un bang e una fiammata. Eccoli, tornano in regia i bombati. Eccoci. Si cambia argomento, ma qui davanti a me invece ho una persona con un maglione con un sacco di pesci sulla... disegnati sopra. Quindi forse rimaniamo in tema marittimo, caro Joao? Penso di no. Penso proprio di no. No, anch'io penso proprio di no. Penso di no. Perché parliamo di tutt'altro. Pensavo tu stessi chiedendo direttamente dall'interessato, scusa. Fai bene a appellarti. No, no, interessato. È preparatissimo, ma con il microfono spento, quindi glielo accendiamo. Ecco, preparatissimo essere... sul mare. Sì? C'è. Sì. Che pesce è quello che hai disegnato sulla felpa? Un capodoglio. Non è vero. Capodoglio un po' strano, però potrebbe essere. No, non è vero, no, avete sentito vero. La voce di preparatevi all'ovazione, Davide di Fabrizio. Trapani, Martelli. Ciao, ciao Nocostini, ciao. Ciao. Come, cosa, che parola hai usato? No costini, l'abbiamo coniata noi di Firenze No Costi. No costini sono i fans. Cioè senza la costata. I no cost sono i collaboratori, sì. I creatori. Quindi no costini sono i fans. E le fans. Oz. E le fans. Fans. E le fans. Fans. I fans. I fans. I fans in generale. Bene, bene, bene. Bene, ma cos'è questo no cost? Perché spiegaci un po', noi stiamo ancora parlando di mare, se non... ci raddrizzi. Allora, cos'è Firenze No Cost? Firenze No Cost è un progetto uscito il 10 novembre, praticamente. In polveriera è uscito il nostro libro. In realtà non è solo un libro, è un libro e un'app. Fondamentalmente è una guida turistica. Noi la chiamiamo una guida antituristica, dove anti è tra parentesi. Perché in realtà vogliamo spacciarla per una guida turistica normale, ti dice semplicemente posti in cui andare a Firenze, cosa fare, eccetera. Ma in realtà per lo più sono posti che le altre guide non consigliano. e che neanche conoscono. E la cosa più divertente è che i posti che noi consigliamo non sanno che esistiamo. Questa è la cosa migliore. Questa è una cosa interessante. Ancora non abbiamo avuto il tempo di dirglielo. Però giuro che pensate di farlo. Sì, si fa in progetto da qui, insomma, si fa. Abbiamo un business plan molto importante. molto plan, sì, molto assolutamente. Plan. Ma senti, ma come nasce questa guida, l'idea di questo progetto? Come nasce questa guida? Ma fondamentalmente io e uno degli altri miei colleghi, che è Marco Tangocci, che alla fine di questa intervista sarà un ex collega, perché dirà sicuramente: io non voglio più avere a che fare con quest'uomo. Però tanto... Vabbè, basta, non l'ha detto la presentazione, perché dovrebbe dirlo ora? No, perché gli do il tempo per pensarci. Okay. No, e poi questa insomma è la mazzata tra capo e collo, no? Okay. Quindi non si aspetta. No, secondo me se l'aspetta pure. Vabbè, comunque ciao Marco, dovunque tu sia. Ciao. Ah, e qui mi hanno detto: non posso dire dove sono, però io lo faccio. Siamo allo zoo. È vero, ragazzi, siamo allo zoo di Pistoia, per l'appunto. Con Capidogli, eccetera, eccetera. Sì, siamo allo zoo. Allora, come nasce Firenze No Cost? Io ho scritto questo libro insieme a Marco, fondamentalmente però sono un cuoco. E infatti è venuta un po' una roba strana. Molto bello, ovviamente, bellissimo, però un po' strano. Diciamo che Marco è riuscito a mettere le toppe dove io ero manchevole, ovvero praticamente su tutto. Però abbiamo sempre mangiato molto bene in casa. come nasce? Nel 2000... Che anno siamo? 2018, siamo perfetto. Nel 2018. Due anni fa, quindi... Ma... Lago, due anni fa? Due anni fa, 2017... 2016. No. perfetto. Grande. Non molto blonde. Allora, 2016. Insomma, io sto in un ristorante, sto cucinando. A un certo punto arriva un coglione, si può dire coglione, no? Sì. In radio. Sì. Si può dire coglione. Sì. Arriva un coglione. Un coglione di una guida, che una grande guida, una GG. Grande guida, non le chiamiamo. Che non si può fare il nome. Non si può fare. Ma non le facciamo. Non si può fare il nome, dai, non lo facciamo. Non è Firenze No Cost, però. Questo è il po', ma sicuro. Ok. No, era per... Non è una guida, ragazzi. Che non è Firenze No Cost. Arriva questo qua, non si può fare il nome, però lo chiamo Franchino. Si può dire Franchino? Franchino si può dire, Franchino. Allora, puoi dire tutto quello vuoi, tranne che siamo allo zoo di Pistoia. Perfetto, bene. Siamo allo zoo di Pistoia. Allora, insomma, arriva Franchino e mi fa: salve, incredibile, il suo locale, che non è il mio locale, ma comunque uguale, e non lo era e non lo sarà. Non c'è più, tra l'altro. Vabbè, comunque. No, mi dispiace. Se ti dispiace, dispiace anche a me. Dispiace un po' a tutti. Vabbè, insomma, mi fa: incredibile, voi siete stati scelti per entrare nella nostra grande guida, di cui non posso fare il nome. Perché, no, vabbè, lui poteva fare il nome, però. Okay. Noi non possiamo fare il nome. Di cui non possiamo fare il nome. Una guida meravigliosa, bam! Quanti soldi ci potete dare? Perché noi vogliamo 350 euro per entrare in the app. Sì. In the app. Certo. 1000, ok, no. Sì. 1000 euro per entrare in the book. Ok. Okay. Ah, 1000 euro l'anno. No, una mille, volta. All'anno, certo. All'anno. E che pensai? Che è un'offertona? Che siamo alla coppa. È tipo quei vai. No, e quindi capito, è così, e le grandi guide funzionano così, quindi. Ma tipo io ti chiedo i soldi. Si aprono, hai vinto un coso, però ti devo mettere il virus dentro e poi non devi. Ma è anche giusto, no? Certo. È giusto, se tu paghi io ti butto dentro, se non paghi non lo butti dentro. Capito? Va bene. E niente, quindi è da lì che già nasceva un po' Firenze No Cost come progetto, però non sapevamo bene se era un libro di racconti, una guida turistica, una non guida turistica, una guida non tu, non sapevamo un cazzo fondamentalmente. E lui, Franchino, ci ha aperto una grande via, perché ci ha detto: le grandi guide turistiche fanno cacare, che è il grande slogan di Firenze No Cost. Le grandi guide turistiche? Le guide turistiche fanno schifo, okay. In realtà è così. Okay. Ora l'ho detta più in versione live. Puoi dirlo punk. Ma l'ha detto Franchino questo? No, l'ho detto io. Ah, okay. Però lui me l'ha insegnato. Ah, giusto. L'abbiamo detto noi. Le guide turistiche fanno schifo, perché c'è sempre dietro... se può dire mafia si può dire. Una mafietta, un po' italiana. Sì. E allora noi abbiamo detto: facciamo Firenze No Cost, la vera, prima, grande guida, con tantissimi aggettivi, quindi. Sì. Che non ha alcun rapporto economico con gestori di locali, con gestori di chiese, con gestori di musei o di porti, di parchi. Gestori in generale. Gestori. Mi sembra più che giusto. Grandi gestori. Non abbiamo rapporti economici con questi, ci mettiamo dentro quello che noi vogliamo, perché viviamo qui da un bel tot di tempo, sperando che si possa dire tot. insomma. E come? È un, sei un po' al limite. Dai, vai. No, no, vabbè, un po'. Sì, no, sapevo che era un'intervista forte. Ribelle, insomma, lo sappiamo che sei ribelle. Intervista scomoda. Facciamo questo di lavoro. Okay. È un cazzo. E quindi noi ci mettiamo dentro quello che cazzo ci pare. Sono posti super fichi. Bene. Tutti gratis? Tutti gratis? Cosa? I posti, senza host, senza host. Vabbè, una buona domanda. Che domanda del cazzo? No, sono qui apposta, mi sono scritte le domande del cazzo. E il regista fa più... Tutti gratis? Assolutamente no, perché vaffanculo, vuoi mangiare, paghi, stronzo. Comunque no. Solo perché sei un cuoco, eh? No, certo, certo. No, però fondamentalmente Firenze No Cost si chiama così perché parte da una base che è quella davvero del no cost, quindi del free, quindi del gratis. Okay. Ovvero, ci sono... per esempio, tantissimi non ristoranti dove mangi gratis, a meno che non rubi, non scappi. Però, insomma, questo non lo suggeriamo. Era una domanda del caso. Non sempre. Non lo suggeriamo. Però, per esempio, ci sono tanti musei o tante opere d'arte meravigliose. Per esempio, il Cenacolo di Andrea del Castagno, il Cenacolo del Ghirlandaio, le butto lì un paio. Cose che si trovano nei libri, nei manuali di storia dell'arte, non è che si trova nel catalogo dell'S Lunga, capite, questa roba qua. Certo. È importante. Non che il catalogo dell'S Lunga sia... No, figuriamoci. E insomma? Insomma, sono gratis. Tanti posti, gratis, non pubblicizzati. Perché non pubblicizzati? Perché sono gratis. Perché non ci andiamo? Perché sono gratis. Annamose. Annamose, come dite voi. No, effettivamente, inaspettatamente Firenze è una città che ha questo tipo di possibilità. All'apparenza non lo è, perché è una città dove i musei, tendenzialmente i grandi musei, costano diversi soldi, anche se ci sono le domeniche. Cos'è? Sì, la prima domenica del mese gratis, ma in generale non sono pubblicizzati, anche per diciamo che tutti noi, ma considerando il genere umano, tutti noi conosciamo i grandi musei, che per carità meravigliosi, bellissimi. Però ce ne sono in questa città, che è una città dove la storia dell'arte è passata con un treno e si è fermata per un bel po' di tempo. E questa città è davvero piena, talmente piena, che la maggior parte di questi sono gratis, zero conosciuti, con zero affollati, con pochissima pubblicità, pochissimo incentivati anche a livello statale. Quindi non è che parliamo di un problema che poi in realtà è italico, non solo fiorentino. Viviamo qui e quindi parliamo di Firenze, però in realtà è un problema che va, certo, anche al di là di queste frontiere, di là anche della Toscana. Di là anche dalle Alpi. Io volevo dire una cosa, uno dice la guida su Firenze e il fiorentino dice sì, vabbè, ciao, fiorentino, so tutto. Un cazzo nulla, io me la so letta non tutta ma in gran parte in praticamente una serata, e in realtà è una guida quasi fatta più per, cioè non più, ma è fatta tanto per i fiorentini quanto per i non fiorentini, nel senso che è una guida che è utilissima per una persona che vive a Firenze e che appunto magari conosce una parte della sua città e magari non la frequenta nemmeno perché appunto è a pagamento, bla bla bla, ma c'è tutta una parte gratuita che non si conosce, io da ignorante per primo, che però poi è... può essere un itinerario per anche un fiorentino. Sì, sì, no, ma fondamentalmente l'abbiamo creata per tutti, sia per il viaggiatore, il turista che sta qui una giornata e che magari viene, che ne so, da posti lontanissimi, tipo Prato. Lontanissimo. Dove ci so, per esempio, questi personaggi. Gli occhi a mandorla, insomma. Oh, grandi doglie. Sì, Prato oppure altre città del Giappone, diciamo, sì. No? Pechino. Mi sono un attimo confuso. Dove la trovano la vostra guida? Dove le la trovano? Le persone che arrivano dal Giappone o le persone che arrivano da Plano? Dove la trovano? Allora, sostanzialmente è un'autoproduzione, perché a noi le case editrici ci fanno un po' schifo. Il prossimo libro infatti sarà Case Editrice No Cost, le case editrici fanno schifo. piccolo anticipo. Però il filone è quello. Sì, il filone è che fanno schifo, insomma. No, vabbè. Ma infatti prima di dire magari dove si trova questa roba, spiegaci, dottore. Che cos'è un'autoproduzione? Cos'è un'autopubblicazione e come avete fatto a cacciare fuori dal niente questo oggetto che noi abbiamo in mano, cioè io non in questo momento, ma abbiamo qui nei dintorni. Che è un oggetto semi-rettangolare e molto bello e molto e anche rosso. Bordeaux. Sì, sì, un rosso vinaccia, in realtà sarebbe un vinaccia. Il nostro grafico, che tra l'altro uno dei ben tre, diciamo anche quattro collaboratori insieme a me e Marco, che siamo gli scrittori, che è Marco Fabri, detto Marcio in arte, che ha realizzato la copertina. Lui si potrebbe offendere perché è un vinaccia sostanzialmente. E infatti spero che si sia offeso e che venga a... Andiamo al succo, dicono. Andiamo al succo. Io sarei qui per tutta la vita a parlare con te, dottore, perché mi piace tantissimo. Il vinaccio è fondamentale. Il vinaccio è cruciale. Sì, torniamo ai capodogli. No, torniamo al perché ve lo siete autoprodotto e che cosa vuol dire. Perché ce lo siamo autoprodurre. Sostanzialmente, come riprendo un po' le parole che erano che diceva il regista precedentemente intervistato. Questo oggetto qui l'abbiamo anche noi davvero, dall'inizio alla fine, autoprodotto. Scritto da noi, realizzato da noi per quello che riguarda il design del libro. Stampato tramite chiaramente una stamperia, perché non disponiamo di macchine così grandi. Non facciamo nomi alla stamperia perché non ce ne frega. No, sì. No, non stamperia. Non ci importa. Fotte sega stamperia. Vai. E vogliamo. È un'autoproduzione perché noi vogliamo avere totale libertà. Abbiamo voluto totale libertà in questo libro. Diciamo ogni tanto delle parolaccine, cose che magari una casa editrice non vuole, non sopporta. E soprattutto non ci piace il fatto che persone esterne prendano una percentuale anche abbastanza grande. Dei ricavi che non spettano loro, sostanzialmente. Sono d'accordo, figurati. Elimino un intermediario senza senso, mettiamola così. Tra l'altro è stato pubblicato col copyleft. All right. Quindi cosa ci possiamo fare con questa vostra guida? La posso stampare a casa, fotocopiare e darla? Assolutamente sì, a patto che nessuno ci lucri sopra. Ok. E a patto che venga citata la fonte. Questo è lo spirito del copyleft, quindi diffusione, una cultura condivisione, una cultura libera per tutti, /E/O/A. Barra U. Ma... Senti, ma invece spiegaci anche un po' come è strutturata, perché bravo. È importante. È abbastanza importante. Ma è strutturata come una, diciamo, una banalissima guida turistica. Siamo in una città che ha quattro quartieri storici, quelli del calcio storico: Santa Maria Novella, Santa Croce, San Giovanni e l'Oltrarno. Sarebbe Santo Spirito, però noi lo chiamiamo Oltrarno. In più noi abbiamo aggiunto un quartiere che è il quartiere centrissimo, lo chiamiamo centrissimo in questo superlativo perché è davvero il più centrocentrissimo del centro. In più la periferia, che è un quartiere sostanzialmente astratto, che va per piccoli punti di interesse al di fuori dei viali. Ogni capitolo, o meglio, ogni quartiere ha un capitolo. Ogni capitolo è diviso in due. C'è un percorso storico-artistico. In breve possiamo definirlo come una passeggiata all'interno di questo quartiere. E quindi i musei, sono descritti i musei, le chiese, i luoghi storico-artistici di interesse. L'altra parte del capitolo è un insieme di recensioni, quindi più gestibili anche dal punto di vista pratico, recensioni di ristoranti, recensioni di negozi, recensioni di bar, tutto quello che è inseribile nella categoria vita, quindi come vivere una città, dove vivere una città. In più, prima di tutto ciò c'è un bel capitolozzo, tipo 40, 50, 60 pagine, che ne so, in cui descriviamo il modo migliore, secondo noi locals, come ci piace tanto dire, di vivere questa città. Quindi come muoversi, come andare dall'aeroporto alla stazione, perché può servire, serve sicuramente a un viaggiatore. Quello che è bene mangiare in questa città. Perché quando è bene andarci, ho visto. Quando è bene andarci. Anche logistiche. Sostanzialmente tutto quello che bisogna sapere per prepararsi a un viaggio. Per questo le utilities sono create sia per una persona che è qui da sempre, magari non si è mai chiesta come arrivare all'aeroporto, alla stazione, senza usare quel minchia di Aerobus che ci costa 7-8 euro. Perché ci sono dei modi molto più pratici, la buttiamo lì. C'è un autobus ATAF, basta percorrere 400 metri a piedi, 300-400 metri, e un ATAF, 1,20 euro a biglietto, 1,50 euro forse, via. Adesso 1,50 euro, l'inflazione. È quella. Porta direttamente in stazione. Alla caserma degli sbirri, sì. C'è un risparmio di... Non so, fai i calcoli. Grande Glavo, quanto? No, non me lo 6,80 euro. 4 euro e mezzo, ma sì. Ah, 80, ti risparmio. Di più, di più. A persona, quindi se avete una famiglia di 60 persone, c'è un risparmio di? 10.000 euro. Grande Glavo, 10.000 euro. Capito? Sì. Tutto. C'è anche una sezione Lungarni, ho visto. C'è anche una sezione Lungarni. Quindi sono 6 sezioni. Sì, sei. Ma poi dire i numeri perché tanto. Ma leggendo la guida, ti rendi conto che i capitoli crescono di più, perché c'è sempre più roba da scoprire, è da verissimo. Fare. Poi vai in giro, la leggi, ti dimentichi, la butti nell'arno, fai quello che vuoi. Certo. Bene, ma qualche ora aneddoto, a questo punto possiamo dire qualche aneddoto. No, c'è bello, qualche aneddoto chicca da raccontarci. Qualche chicca, ma. Tipo, una chicca, facciamo così perché il tempo tipo l'autobus ci ha appena consigliato, dice il nostro amico Bricco, che scarrozza davanti alla caserma dei Carabinieri. No, ma qualche chicca trappola, ma, fondamentalmente possiamo dire bam bam, buttata lì, abbiamo creato una mappa dei vinai a Firenze. Questa qui è una minchiata, è una cosa che no. Nessuno pare ancora, almeno online, ha fatto. Il vinaio è la bottega del vino, dove si trova il vino sfuso al minor prezzo possibile ed è la miglior qualità possibile per quel, ripeto, per quel prezzo lì. È chiaro che se uno vuole un Sassicaia o un Barolo, ti vai a comprare Sassicaia e Barolo, è tutta un'altra storia. Certo. Tante altre piccole le fontanelle anche del vino, la mappa so delle fontanelle. C'è anche una mappa dell'acqua, perché perché le fontanelle del vino non le abbiamo trovate, quindi, quindi avete ripiegato su quelle dell'acqua, ripiegare sui vinai. Poi le mappe delle fontanelle, abbiamo creato una mappa dei servizi igienici, ottimo, quelli davvero gratuiti, perché il Comune di Firenze ci regala, perché vi regala, ricordiamo, non comprate le mappe, cari turisti, perché i centri del turismo le regalano, sì, le mappe. Su queste mappe sono appunto mappati, inseriti dei servizi igienici, che però sono tutti un po' a pagamento, perché sinceramente un euro per andare a pisciare scoccia, è un po' scoccia. Lo fa nel vicolo, cioè. Perché magari uno va al bar, almeno c'ha un caffè gratuito. Già, capito? Che ci sei. Noi abbiamo creato una mappa con circa 40-50 servizi igienici davvero gratuiti, in posti che possiamo immaginare quali sono. Possiamo immaginarlo? Beh, biblioteche, università, biblioteche, anche posti in cui, oltre ad andare a pisciare, sono proprio belli sono da belli, vedere. Già che ci sei, fai una pisciatina e vedi. Sedi storiche di università. Io è un sogno di tutta la vita, da quando esiste l'internet 2.0, quello di creare una mappa, però a questo punto userò la vostra e la sfrutterò commercialmente, dei bagni gratuiti che ci sono a giro nelle città. Gucci Finder si doveva chiamare, però è vero. Perché sei un grande appassionato della ricerca del bagno giusto, sì. È fondamentale. Sì. Io mi ricordo, usavo i bagni del McDonald's, ecco, senza prendere niente, mi infilavo. Sì, ma da un po', grande lago, però da un po', ora, non so se da quanto non frequenti il McDonald's, ma ora devi fare lo scontrino, che c'è un simpatico guardiano del bagno che se tu non hai mangiato il McBurger o l'hai quanto mi hai ordinato, non puoi cacarlo il McBurger, capito? Vai a casa diversi tua. Posti fanno, usano anche questa, libreria, questo, ho notato. Sì, anche una nota catena di libreria, non si può dire neanche questo, ma comunque non si può dire un cazzo, ragazzi, non si può dire niente, è censura, è l'informazione libera, è così. Ma poi chi l'ha detto che non si può dire? Ma che ne so a me. Vabbè, non dire niente. Dai, ma c'è qualcosa da leggere? Ah, bravo. Vero? Sì, ho visto spogliavate. Ma che la cosa è? Guida. Ah, o Firenze No Cost. Dai, potresti. Ah, grande, meraviglioso. Abbiamo anche altre cose, se vuoi. Se vuoi, possiamo fare la 75esima lettura a Cronache Belli della giornata. 75esima? No. No, vabbè. Allora, vai, all'interno di questa guida, a parte abbiamo detto un po' i capitoli, i quartieri, i cazzi, mazzi, eccetera. C'è una serie di box. Cos'è un box in Firenze No Cost? Una scatoletta. È una scatola, una piccola scatola. Un piccolo scrigno, uno scrigno proprio. Uno scrigno dove c'è una grande storiella da raccontare. E noi ve la raccontiamo. Questo box si chiama Chiamatemi solo se rubano la Gioconda. Parigi, estate. L'estate del 1911. Il direttore del Louvre, tale Monsieur Hummel, sta per andare in vacanza e lascia un biglietto ai suoi sottoposti che recita: non disturbatemi, chiamatemi solo se rubano la Gioconda. E ci ha pensato l'operaio Vincenzo Perugia a far rientrare trafelato il direttore dalle vacanze, visto che la mattina del 21 agosto egli usciva dal museo proprio con l'opera di Leonardo avvolta nella giacca. E mentre per 2 anni Parigi scoperchiava tetti, svuotava cantine e sottoscala, additava colpevoli tra cui Picasso e il poeta Apollinaire, ingaggiava detective e addirittura illustri veggenti e occultisti pur di rintracciare la donna più famosa al mondo, lei si nascondeva beata tra le braccia di un imbianchino italiano, in mezzo a mutande e canottiere bianche, nella sua umile e umida alcova parigina. Animato da spirito patriottico, il prode Perugia arrivava addirittura a Firenze col quadro nella valigia, nel tentativo di venderlo alla Galleria degli Uffizi, ma con la sicurezza che sarebbe rimasto per sempre in Italia, perché italiano, perché patrimonio artistico del suo paese. Purtroppo per lui, che magari sperava anche in una medaglia al valore, così non andò. Si beccò infatti 1 anno di carcere, mentre alla sua amata Mona Lisa fu regalato un biglietto di sola andata per Parigi. Pensate, che bella storiella. Bella. Grazie. Grazie a voi. Ci è piaciuta molto. Direi, a questo punto che abbiamo detto che cos'è un'autopubblicazione, ci potete dire dove trovarla, magari questa guida, o dove trovarla, come contattarvi per averla, non lo so, fate un po' voi. Allora, dove contattarci? Prima di tutto, profilo Instagram, profilo Facebook, una mail hello@nocost.guide, profilo Instagram, basta cercare Firenze No Cost, tutto attaccato, okay. Su Instagram, appunto, Facebook, Firenze No Cost staccato, Firenze spazio No Cost. No Cost invece è attaccato. Spero di non aver confuso troppo le acque. Capodoglio. Badoglio. Dove trovarla? Presto, ma non oggi, non domani, forse dopodomani, nelle piccole, grandissime, piccole fuori, ma grandissime dentro, librerie indipendenti di questa città. Possiamo elencarne qualcuna? Queste le possiamo elencare, direi. Possiamo elencare qualcuna. Sit and Breakfast in via San Gallo. Todo Modo in via De Fossi. Black Spring in via Plaza Tasso. E poi via Camaldoli. Via Camaldoli. Bravo. Bravissimo. Via Camaldoli. E poi l'Alzaia, che sarebbe il Cinema Stensen in viale Minzoni. E poi a casa mia, Davide Di Fabrizio, via Masaccio 194, Firenze, casa di Marco Tangocci, Sesto Fiorentino, boh, non lo so. Ottimo ragazzi. Beh, ma avete anche la vostra originalità. Questo presto, ma io ho visto che si può trovare anche subito, invece, bravo, su internet. Internet, dove? Non lo so, dove? Boh. Amazon, sì, la Feltrinelli. Tutto, ovunque, cercate, Firenze No Cost, Google. Senti, ma ce lo volete fare un saluto agli altri collaboratori? Perché agli ne abbiamo nominato uno. Ne abbiamo Marco Fabri, Marcio, illustrateur meraviglioso. Poi abbiamo Salif Omar Faye, lui è l'appista. Abbiamo anche un'app, grazie a quest'uomo, un'app meravigliosa. È già fruibile online, sarà migliorata con tante fotine e tante cosine. Poi... Chi ha scattato le foto di questa guida? Edoardo Fanteria. Abbiamo scelto quasi tutte le sue foto, perché erano tutte meravigliose. E poi chi ha fatto il sito? www.nocost.guide o .guide, se vi va a fare l'inglese. Neri Barnini e i suoi riccioli meravigliosi, che saluto da qui. Ciao Neri. Ma se uno a un certo punto volesse vedere i vostri riccioli meravigliosi, ora faccio una domanda, magari non avete risposta, ma per una, ci saranno, c'è stata una presentazione in Polveriera settimana scorsa? Il 10 novembre, ecco, sì. Il 10 novembre altre. C'è stata. E poi saremo molto presto, però non vogliamo annunciare quando. No, per dire non di... perché non lo sappia, sia chiaro, non perché non lo sappia, ma perché... quindi next Emerson. E poi dove saremo non si sa. Chi lo sa, però annuncerete sempre. Lo annunceremo sempre, okay. Perché quando lo sappiamo noi lo diciamo, a differenza degli altri. Va bene? Le grandi guide che invece annunciano non, e non sanno. Non sanno o niente. Non sanno e non annunciano. Non va fanno bene. Nulla praticamente. Va bene. Ragazzi, cioè ragazzo, dolce ragazzo, è stato un enorme piacere, speriamo di riavere il tuo bel grugno qui presto. Sì, un carissimo saluto davvero ai capodogli dello zoo di Pistoia. Certo, naturalmente. Grazie compagne, lottiamo. Ciao. Beh, andiamo con pezzaccio. Mandaci una canzone e dobbiamo staccare il cervello. Vai. Let me go. Una Dario stupenda. Contro Dario è una Dario stupenda. Contro Dario è una Dario stupenda. Ed eccoci qua. Oh, buonasera. Sul Contro Dario, la vostra Dario preferita. Aspettate un attimo, datemi il tempo di abbassare un po' il volume. Eccoci qua. Contro Dario, la Dario stupenda. Ciao a tutti. Ciao caro. Come state? Abbastanza bene. Bene. Siete pronti per un po' di aggiornamenti nardellici? Vai. Certo. Eccoci qua. Allora, intanto, contributo affitto. C'è stato un bando per il contributo affitto a ottobre. a ottobre. Attenzione, ci sta, nel frattempo si sta provando un microfono. Allora, bando del contributo affitto, come è andata a finire? È un bando pochissimo, pochissimo pubblicizzato. Siamo andati a vedere le graduatorie sul sito del Comune di Firenze. Abbiamo 55 ammessi in fascia B, 87 in fascia A, tutti quanti ben numerati. Non numerati sono gli esclusi, ovviamente, no, perché si fanno vedere quelli accettati e non quelli... Erano un sacco di soldi, tra l'altro. Un sacco di soldi, sì, esatto. 55 in fascia A, in fascia B, e 87 in fascia A li hanno vinti. Circa 200, perché poi non sono stati a contarli uno per uno, perché non l'hanno numerati quelli, c'era l'elenco senza i numerini. Sono gli esclusi. Quindi, insomma, niente. Grazie, Darione, per questi 55 e 87. Facciamo anche un preambolo, perché era veramente difficilissimo. Era difficilissima. L'iscrizione, ne avevamo parlato nello scorso contro Dario. Vabbè. Ne avevamo parlato nella scorsa contro Dario, proprio dell'iscrizione a questo al bando per i contributi affitto. Vai, non ti voglio bloccare. No, figurati, tranquillo. Poi niente, andiamo a parlare. Allora, cosa abbiamo oggi? Abbiamo la newsletter di Nardella, in cui troveremo alcune cose molto, molto, molto stuzzicanti. E poi avremo anche... degli estratti da Vita dal Sindaco. L'avete visto questo video? Io me lo so sgranato anch'io. Allora, 486 visualizzazioni c'ha. Non sono cresciute negli ultimi periodi, cioè non sono cresciute. Era 400 il 10 di novembre, era 400. Quindi fate conto, non se lo incula nessuno. Non se lo incula nessuno. L'abbiamo visto praticamente noi. Sì, anche io l'ho visto diverse volte per studiartelo bene. No, per scaricare i contenuti. Poi ve ne mando uno. Vi mando subito l'inizio, dai, così almeno ci iniziamo a scaldare un po'. Via. Ta-ta-ta-ta. Partivo una mattina con vapore. E nel frattempo immagini di una Firenze bellissima, bucolica, scintillante. I piccioni che volano, la luce che taglia al Duomo, la bella signorina che cammina, la faccia di Nardella, un certo lieto bello vedo, ed un favore piccolo ti chiedo. La porti un bacione a Firenze. Eccoci qua. La mia città, Nardella alle cascine, attenzione. Mentre rimette a posto un cartello, perché insomma Nardella le fa di tutte, passano due signore con il motorino. Questa è la scena. In due sul motorino non si va, signora, Sgamate. E come, quello è un 50, signora, via. No. Sicuro non c'è il 125? È regola, va bene. È regola. Vada. Controlla tutto. Quelli che fa? È Nardella vigile comunque intanto. La pipì. Insomma, l'inizio, cioè comincia con Nardella che sgama due signori in motorino e poi niente, sgama uno a pisciare dietro una siepe alle cascine, tutti i problemi primari della città. Ma scherzi. Continua la sua passeggiata e incontra delle vecchie razziste. Sentite un po' cosa che viene detto in questo, questa non è male, la parte delle vecchie razziste. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Come sta? Ma no, siamo al mercato. A fare una passeggiata? Sì. È martedì, è piacevole fare. Sì. Qual è la mia boutique? Ah, dove sta di casa lei? Noi nelle case popolari. Nelle case popolari. Come sono? Ci interessa. Insomma, prima si stava meglio. Prima perché c'era meno tutta gente come noi. Eccola. Come noi, ora non si sa che ci sia. Le dice. La prima una che ho i burka me la infilano. Eccolo, i burka. No, i burka. Fastidio, no. È importante che rispettino le regole, le rispettino. Le regole, per l'amor di Dio. Comunque vengo a trovarvi lì allora, via. Buona passeggiata. Grazie. Buona passeggiata. Arrivederci. Buona passeggiata, signori. Che niente, problemi delle case popolari, andrà a trovarli. Infatti, niente. I problemi delle case popolari sono le donne col burka che non danno fastidio, però. Che non danno fastidio, però sta meglio prima. Stando alle regole, però si stava meglio prima. Okay. Questa è un po' la sintesi, viene fuori sta cosa. Mentre il fischiettio di Cantagallo il Menestrello ci continua ad accompagnare nel nostro viaggio attraverso questo fantastico video, sì. Niente, andiamo a vedere proprio l'iniziativa Usce Bottega presentata da Nardella. Nardella sotto casa di dei giovani ragazzi. Poi non si vede cosa è che succede. succede dopo nella casa, quindi meno male. Boh, vabbè. L'hanno fatto entrare, ci sta. No, l'hanno fatto entrare, l'hanno fatto entrare. Sentite un po'. Come una sonora tamarra. C'è per tutto il video sta volta. Poetica. Fa bene il mal di capo, dopo 10 minuti. Questo. Da due settimane siamo partiti con l'iniziativa Uscio e Bottega. Il sindaco che va a casa di un fiorentino, di una famiglia, di un anziano o di un gruppo di giovani come stasera, persone che io non conosco e che non mi conoscono, con le quali parlare della città. Perché io penso che la prima cosa che un cittadino chiede al suo sindaco è essere ascoltato. Poi viene il resto, affrontare i problemi, cercare di risolverli, tirare fuori proposte, ma l'ascolto è fondamentale. E ora si va su una campanella. Fondamentale. Fondamentale. Suona il campanello e sale il grande Nardella. Senti qua. Sono il sindaco Nardella. Ecco. Ma che immagini? Quinto piano, grazie. Ed ecco il grande quesito per gli ascoltatori di Fuoco alle Polveri. Voi li aprireste a Nardella? Vabbè, scriveteci sì no sulla posta Wombat in Siberia. Sperate così il vostro. Sì o no? Risposta secche, mi raccomando. Secco, sì o no? Sì o no? No, sì o no, non dilungatevi, no, cioè, non siate offensivi, cioè, sì o no, secco, vogliamo sapere. E basta. Comunque io tendenzialmente eviterei di farmi entrare in casa, sì, no. Sì, anch'io, onestamente non mi farebbe piacere. Cioè, se devo dare un parere personale, sì, non mi farebbe piacere. Però anche questo interessa poco. Quindi allora, i ragazzi però lo fanno salire, i ragazzi lo fanno salire, non si sa cosa succederà in quella casa, no. Così ne esce Nardella, sì, perché oggi è vivo. No, ne esce Nardella dopo, nel giorno dopo, perché è tipo il reportage di un paio di giorni da sindaco, e c'è lui che va al TG Toscana, che va al consiglio comunale, che va a giro in tranvia, saluta la gente, insomma tutte queste cose qua. Durante la passeggiata cosa ti va a succedere? Qui ci andiamo a sentire un pochino di passeggiata, è quello un po' più lungo, ce lo sentiamo un attimo, perché succede una cosa indicibile, inaudita, indescrivibile. Suspense. Eccoci. Grazie. Bocca al lupo. La gente augura in bocca al lupo. E ora si sente poco, scusate. Però passa un tizio, un gatto, tutto marcio. Che gli piace a qualcosa? Per te funziona, vero? Che dice lei? No, sì, aspetta. Sì. Voi cosa usate per l'università? Magari. No, per lavoro? Sì. Ah no, questi sono dei ragazzi sul pullman, aspetta, sbagliato. Ora noi abbiamo un solo piano semaforico della stazione. Appena invece avremo diversi piani semaforici, i tecnici, nel momento in cui avvertono una criticità imminente, regolano i semafori per liberare il flusso in uscita. Complimenti, ecco. Il minimarket. Complimenti per i minimarket. Grazie. Quello era un cittadino pagato per farmi complimenti, ovviamente. A me dà una grande carica. Ovviamente ti becchi anche le critiche. Io vado sempre in città senza filtro, senza paracadute. Come vedete, sto con le persone, qualche volta ci sono richieste. Devo dire che di solito i cittadini ti incoraggiano, secondo me apprezzano il fatto di vedere un sindaco che cammina per la strada, che va nei locali, nelle piazze. Questo è un fatto molto importante. Noi abbiamo, magari dai giornali, dalle televisioni, un quadro a volte parziale o distorto. Qui è tranquillo, Nardella, è sorridente. E quando vedo una persona che mi viene incontro e mi fa i complimenti o mi incoraggia, a me basta. Questa è la cosa che mi ripaga da tutta la fatica quotidiana. Sì. Per esempio, qui le strisce vanno rifatte. No, anche le piccolezze. Va avanti la passeggiata di Nardella, qui musica ovviamente con panorami di Firenze. Musica ossessiva. Quanto è bella Firenze. Quanto quando bella. Si arriva qui, ti si apre lo sguardo, piazza dell'uomo, sul battistero, sulla cupola dei Brunelleschi, sul campanile di Giotto. Io quando vado in giro per la città e poi arrivo in centro e vedo questi luoghi di una bellezza. Oh. mi emoziona sempre. E fare l'abitudine a Firenze è impossibile. Ma che c'è? Che c'è? No, c'è un materasso e va fatto levare. Eccolo. Sono veramente senza alcun ritegno. Lo sceriffo. Qui ora abbiamo le fototrappole. Nessuna tolleranza, perché una persona che fa questa roba qui probabilmente non merita soltanto di essere svergognato davanti a tutti. Svergognato davanti a tutti. È via De Brunelli, è via Brunelleschi. Porca troia. Un materasso. Bravo. Dietro sono davanti a un materasso. Cioè uno. Sì, hanno messo un materasso qui. Ora abbiamo delle telecamere di sorveglianza. Sì. E quindi riprenderemo quello che. Dal satellite anche. No, è un singolo messo in piedi proprio, appoggiato. No. Perché vi sto annoiando con questa cosa? Voglio per vedere se al caffè la. Ora dice una cosa in particolare. Lo so, ecco, ecco. Infatti, è una roba, questa gente andrebbe. Non mi faccio essere troppo. Un mese in galera, ecco, dice questa cosa, un mese in galera per una persona che lascia un materasso per strada. Ora, niente, lo sceriffo. Perché senso, il grande sceriffo Lardellone. È severo ma giusto. Ora, non so voi, a me uno lascia un materasso per strada, mi viene da pensare, no? Questo qual, cioè, poi dopo va, seguita il video, va in un bar, chiede, indaga, dicono che è un ragazzo e lo lascia lì tutte le mattine, quindi chissà. Probabilmente sarà qualcuno che casa non ce l'ha, che dorme su quel materasso e che sì, lo lascia in un punto. Però ora, nel senso, un mese di galera. Sì, comunque. Forse gli fa un favore a uno che dorme per strada con un materasso a mandarlo un mese in galera nell'ottica nardelliana. Però, che mese di galera? Oh, ragazzi, un materasso. Invece sottovoce, cioè, un mese in galera. No? Poi non si capisce se c'è un mese o se è di più. Un mese. Sì, comunque, nel senso, vabbè, questo comunque, qua gabbia, è il video. Gabbia. Un po' una. È il video che lui si è fatto fare fondamentalmente per avviare una campagna mediatica in vista delle elezioni, grande appuntamento primaverile. Si inizia così, effettivamente il video tocca tutti i temi americani, si parla della sicurezza e si parla le buche, la viabilità, la tranvia, i nuovi progetti della tranvia, regole, le cascine, ha chiuso la discoteca lì alle cascine, tutti questi discorsi. E cos'è che non può mancare, indovina un po', mio amico Bricobaldo? Magico violino di Nardella. Certo, sentiamocelo, la sviolinatina di Nardella, ci fa sempre piacere. Questo è il violino che tengo qui, uno ce l'ho a casa e uno lo tengo. Questo è il violino che tiene un palazzo vecchio. Ecco lo scodella. Nardellata sviolinata. Senti qua. Poi nelle immagini fanno vedere lo spartito dell'inno alla gioia. Cioè questo suona l'inno alla gioia mentre. Nelle pause al lavoro. Vabbè, è già che non suonava Forza Italia. Sì, la scorsa volta suonava Forza Italia. Forza Italia. Si direttava suonando la gioia. Ora chiude, tranquilli. Grazie Nardella, grazie. Alta radio. Senti qua, compagna. L'ultima nota virtuosa. Zà! C'è la sofferenza, c'è la. Bene. Buono. Veramente, lo sceriffo. Poi. The Sheriff. Sì, esatto. Allora, vi risparmio altri estratti da questo video. Se volete, andate a vedervelo. Andrò a controllare. Se sale da 486 visualizzazioni. Secondo me sì. Comunque. Secondo me sì. Come nostro. Poi, cosa è successo? 13-14 novembre. Nardella a Barcellona e Madrid. Perché era in missione in Spagna per partecipare al congresso mondiale Smart City Expo di Barcellona, una delle più importanti rassegne a livello mondiale delle città smart. Per questa edizione sono previsti oltre 20.000 visitatori rappresentanti 7.000 città da 120 paesi del mondo. Questa è una notizia del 12 novembre. Cosa viene fuori da questa notizia? Firenze ha ottenuto il primo posto a livello nazionale per trasformazione digitale nello ICT Rate 2018. Siete tutti entusiasti di questo? Ma guarda, sì, veramente. La classifica delle smart cities italiane, Firenze è la seconda dopo Milano. Dopo Milano, da. Sa tutte Bricobaldo. No, le sa tutte. Quindi. Sì, ciao. E quindi niente, Madrid, il sindaco Madrid e Barcellona per questo, ma coglie anche l'occasione per un'altra cosa, perché va a Madrid accompagnato dall'ambasciatore d'Italia e di Spagna e è andato alla Fiscalia General del Estado, che è, insomma, l'organo di giustizia spagnolo a livello centrale, per un aggiornamento sull'istruttoria in corso per il caso Ciatti. Cioè è andato a indagare per Niccolò Ciatti, quello... il ragazzo di Scandiccio. Sì. Personalmente è andato personalmente. Beh, a quanto dicono qua. Poi, sceriffo, sceriffo, va col cavallo e prende il cavallo e vai. Se è un altro paese, vai in un altro paese. Il cavallo non ha la stella. Non ha la stella, però è uno sceriffo a tutti gli effetti. Per ora, secondo stella, me, in cameretta per mentre è in pigiama se la mette. Secondo me, sì. Poi niente. Comunque, secondo me, fra l'altro, bisognerebbe un po'. Non ho avuto tempo di vedere, ma secondo me a Barcellona si sono anche incazzati per questa roba qua. Sì, sì, sì. Parlavamo qualche puntata fa con i compagni del set. E Barcellona è una delle città che si sta attivando molto per contrastare questa turistificazione e questa mania delle città smart, che poi giovano tanto agli sceriffi. Sì, esatto. Poi vediamo un po'. Leggiamo adesso invece un altro po' dalla newsletter di Dario Nardella del 15 di novembre. Il 16 novembre con Matteo Renzi, quindi è passato, ve lo siete perduti, ascoltatori da The Wombat, presentiamo il libro di Marco Minniti, Sicurezza e Libertà. Eccola. Presente Matteo Renzi, modera certo. La giornalista. No, poi mi dice: no, ma io non sono mica il candidato renziano. No, ragazzi, libro su Minniti insieme a Renzi. È buono il libro su Minniti. Buono. Libro di poi Minniti. In Piazza dei Ciompi, tutti i venerdì, il mercato dei fiori. Siete contenti? Beh. Avete comprato dei fiori? Tutto comunque buonissimo. Posso? Sì. Cioè, quando sei vicino alla fine, dimmi. È fammi la fine, un cenno. All'incirca. Tre suggestioni per le prossime. Sì. Una è l'app che oggi ha presentato ufficialmente Nardella sul decoro, si chiama proprio, mi sa, qualcosa Decoro Firenze. Quella per cosa ci segnali, no? Per fare foto al marciume o a graffiti, sporcizia, fare la foto, caricarla direttamente su questo portale e il Comune di Firenze poi interverrà. Quello che dicevamo un po' di puntate fa su la diretta del consiglio comunale, c'era il grande appalto per assegnare questa diretta fantasmagorica, forse hanno sentito la tua sigla e il controradio per l'appunto ovviamente si è preso l'appaltone e aspettiamo a grandissima gloria lo sfidante di Dario Nardella per le prossime elezioni, perché... Amici miei, se per caso dovesse essere davvero, come poche indiscrezioni dicono, Diego Fusaro, allora amico mio, beh assoluto per il Darione e beh assoluto su Contro Dario per tutti gli amici controdarici. In tutto ciò avrei anche modificato, sentite qua l'atmosfera da Robin Hood e Little John, avrei anche qua pronto una canzoncina. Dai, yeah. Che sarebbe, diciamo, una modifica di Giovanni Re Fasullo di Inghilterra, ve la ricordate, no? Giovanni Re Fasullo di Inghilterra, l'ho rifatta con il sindaco Dario Nardella e spero che vi piaccia. Lo lasciamo finire questo fischiettio di sottofondo e niente, ci sono anche dei cori, per adesso li farò io con una voce un po' diversa, però poi dalla prossima volta, se la dovessimo rifare, mi aspetto che tutti quanti se li impari. Eh sì. Buongiorno signora, nel frattempo. Ah, buongiorno signora. Ok. Aspettate, prove tecniche. Ok. Mi metti qua il microfono, per favore. Eccoci qua. Ok, prove tecniche finite. Vai. Facciamo che va bene così. Da molto tempo ormai non c'è tranquillità. Per bere una birretta devi stare dentro al pub. Di già con Matteo Renzi mi sentivo soffocar, ma Dario Nardella lui mi fa proprio vomitar. Fenomeno di incapacità nei libri di storia ci sarà, ma solo se li scrive sua sorella, il sindaco Dario Nardella. sul tram lui sta, passeggia un po', saluta pure te, ma neanche sa di far pietà, ridicolo com'è, e neppure se c'è un morto, pensa prima di parlar. E in manifestazione prese uno scaracchione. Eh sì, ce l'hanno tutti con lui. Ma adesso ci sarebbe, è un po' di musica folk per me. Magari Nardella ci vuole fare la parte di violino nel frattempo. Ci tartassa col violino mentre svende tutto via. Puoi stare in santo spirito, gli sembra una follia. Ha chiuso piazza Ciompi, l'abbiamo visto festeggiar nel centro a bed and breakfast, buona fortuna se vuoi abitar. E avrai tempo di dir va, che ti ritrovi un altro cap per colpa del decoro di Nardella. E chatta la buca con la sua app, la fototrappola ti beccherà. Vuoi la schiacciata? Scappa di qua, grazie al decoro di Nardella. È pavido, stupido, sudicio, insipido, sembra sia mongolo, anche se è sindaco. Ma quanto piace questo incapace sindaco Dario Nardella. Yeah! Hey! Grande, Grippo, grande. Bellissima, bellissima. Bravissimo. Grazie, forse. Ti super grazie. Grazie, super grazie. Hai ascoltato Contro Dario. Bravo Dario! Bravo! Amici, è stato... Questo è tutto. È stato meraviglioso, è stato tutto bellissimo. Meraviglioso. Cioè, basta, io chiuderei. Sì, sulla meraviglia, sì, ci siamo. A lunedì prossimo. A lunedì prossimo. Mai verrà fuori una puntata così, secondo me. No, mai. Poi ciao. Raffazzonato in ritardo. Via. Ciao, ciao, bomba, ciao. Bomba. Evviva. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Rivoluzione. Rivoluzione, per favore, non parlarmi tu di rivoluzioni. Io so benissimo cosa sono e come cominciano. C'è qualcuno che sa leggere i libri, che vada a quelli che non sanno leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice: oh, è venuto il momento di cambiare tutto. Schifo! Io so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni. Quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri. I poveracci gli dicono: qui ci vuole un cambiamento! E la povera gente fa il cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo e parlano, parlano e mangiano, parlano e mangiano. E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti! E porca troia, lo sai che succede dopo? Niente! Tutto torna come prima!